per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, traghettatore, ben arrivati. Parliamo di muoversi in città, di mobilità sostenibile, un concetto che ha subito negli ultimi anni un'evoluzione rapidissima. Si è partiti dall'automobile che inquina meno, dall'Euro 4, all'Euro 5, dalle zone a traffico limitato, piuttosto che vedremo anche le inibizioni all'accesso. Oggi siamo arrivati a discutere, ad affrontare un tema che rivisita nel complesso il movimento delle persone e delle merci, sia nella modalità privata che nella modalità pubblica. Oggi parlare di mobilità sostenibile vuol dire effettivamente ripensare la città. Dal papà dell'Ecopass milanese, vizi e virtù della mobilità a impatto zero, con uno sguardo al resto del mondo dove accadono eventi fuori dal comune. Il successo del bike sharing in corso d'opera, ma c'è una categoria che è in testa all'indice di gradimento del servizio: i ladri di biciclette, ovviamente romani. Il Politecnico di Milano studia e valorizza una straordinaria risorsa capace di mobilità a costo, impatto ambientale, rumore e inquinamento visivo zero: i piedi. Con i sommari ci divertiamo sempre a giocare con le parole. Vale la pena precisare che quando diciamo i ladri di biciclette, ovviamente romani, non ci riferiamo al fatto che i romani sono ladri di biciclette, non è in questo senso l'ovvio, ma l'ovvio è ovviamente una citazione cinematografica per quelli che hanno un po' di capelli bianchi e ricordano il film di De Sica, fra cui anche Edoardo Croci, già assessore comunale di Milano e oggi direttore di ricerca dello IEFE. Buongiorno. Buongiorno. Professore, buongiorno. Papà dell'Ecopass milanese, vizi e virtù, probabilmente questa definizione l'ha ormai annoiata, non ne può più di sentirsi definire così, papà dell'Ecopass milanese. Beh, Ecopass ha colpito sicuramente molto, ma è solo una parte delle tante misure per una mobilità sostenibile in una città, è la parte del disincentivo, poi c'è tutta la parte invece di ricostruzione di una città, di compatibilità fra la forma urbana e i sistemi di trasporto, di innovazione nei sistemi di trasporto. E comunque è vero quello che sostenevo così nell'introduzione, che in effetti è da qualche anno che si è rimessa in discussione totalmente i criteri di mobilità all'interno delle mura e della città. Sì, soprattutto nelle città. La rivoluzione della mobilità sostenibile è partita dalle città, non solo tra l'altro dalle città dei paesi industrializzati, ma anche dalle città nei paesi in via di sviluppo. C'è consapevolezza da parte dei cittadini, c'è pressione sulle istituzioni, c'è consapevolezza, dicevo, che la mobilità è essenziale nelle città, ma può anche provocare, quando in troppi hanno un'automobile e si spostano con il mezzo privato, congestione, può provocare gravi effetti sulla salute, danni all'ambiente, e da questa consapevolezza globale è nato poi un movimento di città che sono innovatrici proprio in questi sistemi. La sensazione che si ha, guardando, come dire, da osservatori, è che si arrivi a discutere, a mettere in discussione meccanismi, strutture, concezioni che sono ampiamente radicate. Insomma, stiamo arrivando a mettere in discussione un po' tardi rispetto a quelli che invece forse hanno fatto in altri paesi europei, per esempio anche latinoamericani. Sì, diciamo che è una situazione un po' a macchia di leopardo. Se noi guardiamo l'America Latina, c'è Curitiba, città eccellente che è riuscita a pedonalizzare il centro in un weekend. Questo è famoso come esempio, perché storia, temevano le resistenze, tra l'altro, proprio dei commercianti e di altre categorie, che invece poi hanno guadagnato da questo processo. Però diciamo, qua c'è stato un sindaco illuminato che ha rischiato e ha rischiato bene. C'è l'esempio di Bogotà con il Transmillennium, con non potendo fare una metropolitana, costava troppo, degli autobus che vanno alla stessa velocità in una metropolitana in corsie riservate. Ci sono anche esempi appunto in America Latina, però anche in Europa, no? Berlino, le città tedesche, molto, mi pare. Tedesche, Berlino, Amburgo, se guardiamo le città scandinave, a Stoccolma, a Copenaghen, se guardiamo ai Paesi Bassi con Amsterdam, hanno tutte qualcosa da insegnarci, ma anche in Italia qualche esperienza è stata fatta proprio a partire da Milano. Lei, professore, è direttore di ricerca dell'OIEFE, che è un istituto di economia politica, dell'energia e dell'ambiente della Bocconi, che come altre università e altri istituti sono, come dire, c'è un grande fermento su questi temi, siete tutti al lavoro. Sì, siamo tutti al lavoro, anche perché devo dire le istituzioni comunitarie per quello che riguarda l'Europa hanno puntato decisamente su questi processi di mobilità sostenibile, quindi c'è anche una convergenza fra quella che è la strategia dell'Europa in termini di efficienza energetica, riduzione delle emissioni di CO2, miglioramento della mobilità dei trasporti e quelle che sono le competenze di un centro di ricerca come il nostro, in questo caso appunto il centro dell'Università Bocconi che si occupa di sostenibilità. Di energia e di ambiente. Non è solo sembrerebbe che tutto, che le soluzioni siano concentrate sul trasporto pubblico, in realtà, o sulla riduzione del traffico privato delle automobili. In realtà mobilità sostenibile vuol dire anche schemi di trasporto alternativo, per esempio il bike sharing. Il bike sharing funziona benissimo anche a Roma? Forse sì. Dipende dai punti di vista. Secondo il sito ecowiki.it è un grande successo sicuramente tra i ladri. Sembra che nemmeno le colonnine che ancorano le bici del bike sharing della capitale possano fare molto. Negli ultimi 60 giorni ne sono state rubate 45. Il dato è ancora più grave se confrontato con il totale delle bici disponibili a Roma, 150 biciclette distribuite in solo 27 posteggi disseminati per la città. Giornata di citazioni dopo il film, anche la musica. 40% della forza di biciclette di bike sharing a Roma sono svanite nel nulla. Pedro Canoff, che è qui con noi. Buongiorno Pedro Canoff. Buongiorno, come va? Bene, grazie. È di Buenos Aires, anche se vive fra l'Italia e l'Argentina, ed è il padre del bike sharing, nel senso Canoff, lei nel 1980 ha avuto quest'idea di mettere a disposizione le bici e di farle, come dire, circolare fra gli uomini di buona volontà. Non precisamente tra gli uomini di buona volontà, io lo che proposi allora era un sistema integrato di gestione delle biciclette attraverso un sistema computarizzato centralizzato, quindi non era tanto la buona volontà, c'era un sistema di gestione che avrebbe controllato queste biciclette. Sì, la buona volontà. Alla fine degli anni 80 non c'è stato nessun riscontro, infatti. Né in Italia né da parte dell'Elysée a Francia, dove allora presentai l'idea a Jacques Attali. Ecco, Canoff, lei ed Edoardo Croci vi conoscete già, immagino, quindi potete, certo. Ecco, vi siete sicuramente visti. No, gli uomini di buona volontà ovviamente non era riferito a quello che ha fatto lei, né alle colonnine elettroniche, alle persone che hanno deciso di utilizzare le biciclette per spostarsi in città, che come lei ha detto sono in realtà ancora poche, nonostante siano passati quasi 30 anni. Ma torniamo un attimo in là di biciclette, Canoff. Il punto è che fra quelli che la usano sistematicamente la bicicletta, quello del furto è effettivamente un problema, lo dico anche a titolo personale, fra l'altro, ecco. E lei nel suo nuovo progetto di evoluzione del bike sharing, che si chiama Parkea, lei lì proprio mette il dito su questa piaga e propone una soluzione. Infatti il problema del bike sharing, o il limite del bike sharing, è che è semplicemente un sistema per affittare automaticamente delle biciclette. Questo sistema potrebbe servire a chi non ha una bicicletta. Quello che noi sappiamo delle statistiche è che in tutte le città occidentali c'è almeno una bicicletta ogni 4 persone, arrivando ad esempio in casa in Comune Italia, dove ci sono 30 milioni di biciclette, dicono le statistiche. Quindi se noi, se gli amministratori pubblici potessero fare una politica orientata a fare che queste biciclette escano dai balconi, dai garage, degli scantinati e possano servire come mezzo di trasporto, cambierebbe tutto. Chiaramente c'è il problema che lei segnala, il problema del rubo. Infatti all'incontro di questo, per proporre una soluzione a questo, c'è il sistema dei parcheggi che io propongo, che è un sistema aperto dove ogni tipo di bicicletta può utilizzare il parcheggio, parlo fondamentalmente bicicletta privata, senza escludere il fatto che alcuni imprenditori possano mettere le loro biciclette in affitto. Ecco, fermiamoci un attimo, Cano. Intanto approfittiamo della presenza ancora di Croci per commentare questa prima parte e poi spieghiamo bene come funziona Parchea. Professor Croci, 30 milioni di biciclette sono davvero sorprendenti come dato. Sì, meglio che 30 milioni di baionette. Sì, certo. L'importante è usarle bene queste biciclette. Ecco, che ne pensa di questa proposta, di questo invito di Canoff? Tirate fuori le biciclette, appunto, meglio ancora che il baionetto e i fucili dalle vostre case. Effettivamente è un problema di comunicazione l'uso della bicicletta. Andrebbe incentivata al di là del bike sharing. C'è un problema di comunicazione, c'è un problema di sicurezza, c'è una questione di cultura, ecco, c'è anche una questione di innovazione dei sistemi, e di questo mi sembra che parli Canoff. Io ci tengo a dire che a Milano, ad esempio, il bike sharing di Milano, invece che è certamente un bike sharing di ultima generazione, non ha sostanzialmente avuto furti, ci sono circa 1400 biciclette, quindi cambia molto anche dai sistemi. Canoff, in effetti l'esperienza milanese sembrerebbe più che altro sottolineare che a Roma hanno forse sbagliato qualcosa negli impianti, e che comunque lei ha messo il dito nella piaga, e quindi il suo progetto è destinato ad avere successo, immaginiamo. Sì, sento questo, sì, indudabilmente dipende anche dalle caratteristiche dei sistemi installati. Quello che credo fortemente è che ci possono essere delle tecnologie, infatti queste che io propongo nei miei sistemi di parcheggi attraverso quello che si chiama il Mobility Propulsor, che è il prodotto della mia compagnia, che sono parcheggi protetti elettronicamente, dove ogni tipo di bicicletta può usare il sistema di parcheggio, quindi qualunque dei parcheggi della città, e dove la bicicletta, una volta lasciata, è protetta elettronicamente. E non solo la bicicletta, sino tutto quello che c'è intorno, sopra la bicicletta. Questo è molto importante. Dico protetti, chiaramente, dopo ci sono diversi sistemi di furto che possono essere più efficienti che la protezione, ma almeno c'è questo deterrente. Questo lo consente oggi la tecnologia. Quello che io cerco di fare è di utilizzare la tecnologia elettronica che oggi è disponibile per produrre un cambio sociale nell'abito, nell'abitudine del transportation, della mobilità della gente. Ma cosa vuol dire quando lei dice protetta elettronicamente, che è un po' come gli antifurti satellitari, quelli delle automobili? Non necessariamente, no, il sistema è in ogni parcheggio ci sono un numero di spazi per biciclette, ogni spazio per una bicicletta ha un sistema ultrasuonico di protezione volumetrica che consente che quel volume è protetto elettronicamente. Questo è un sistema collaudato, già messo in pratica in diversi in altri tipi di applicazioni, e quindi io solo sto cercando di trasladare questa esperienza, che ha decenni, più di 20 anni di esperienza già in ambito industriale, a questo tipo di parcheggio. Infatti noi le stiamo utilizzando. Abbiamo parlato di bike sharing, siamo andati oltre il bike sharing con Pedro Canoff, che ha questo suo innovativo progetto per proteggere e che pone l'accento sull'aspetto della sicurezza. Edoardo Croce è con noi dall'inizio della trasmissione. Professore, però certo non è solo una questione di sicurezza. Io non credo che dei 30 milioni di biciclette che ha contato Canoff, occhio e croce 29 milioni restino a casa per una questione di sicurezza. È proprio l'italiano che non ha, in buona parte della penisola, non ha la cultura dello spostarsi su due ruote. Beh, non siamo né ad Amsterdam né a Copenaghen, dove sì, dobbiamo impallidire, perché si hanno addirittura, la bicicletta diventa il principale ad Amsterdam mezzo per spostarsi in città, e noi abbiamo un clima in verità più caldo, quindi possiamo arrivarci. E questo però non avviene. Beh, in alcune città dell'Emilia Romagna devo dire che, se non ricordo male, insomma, Modena piuttosto che Reggio Emilia, invece c'è una cultura, c'è una storia anche forse da due ruote. Ma anche Ferrara, dobbiamo anche dirlo. Anche Ferrara, se no poi si offendono, giustamente. Però il problema è quello, cioè gli italiani dovrebbero abituarsi all'uso della bicicletta più che a non temere il furto di questa bicicletta. C'è un altro modo per, ancora più, come dire, radicale per vivere l'esperienza della mobilità sostenibile, quella di farsi portare da chi usa la bicicletta, per esempio a Firenze. show potranno circolare a Firenze. La delibera che prevede il servizio è stata approvata dalla Giunta di Palazzo Vecchio. Queste sono le nuove forme di mobilità sostenibile, touristic-oriented, anche se non è detto che se i costi, i tempi e i modi lo consentiranno, l'iniziativa non funzioni anche con gli indigeni. Per ottenere l'autorizzazione occorrerà presentare specifici progetti al comune in cui siano previsti gli itinerari, il costo dell'iniziativa e il numero di persone coinvolte per realizzarla. Si comincia con cautela, però. Solo 5 i progetti autorizzati a sperimentare il reshow per 3 mesi. Poi si vedrà. Anche perché i tassisti non vedono di buon occhio la concorrenza di taxi a trazione umana e sono già sul piede di guerra. Beh, professore, visto i tempi che corrono, la crisi energetica che si preannuncia sempre più, come dire, hard, e non solo quella energetica ma anche quella economica, forse è meglio avere tanti tassisti a trazione umana che tanti al semaforo, che dice? Io ho preso un reshow a New York poche settimane fa, quindi quello prima l'avevo preso a Bangkok, quindi evidentemente non è solo un fatto di crisi, è anche un fatto di cultura, cioè ci si rende conto che la trazione umana è ecologica, e quindi è qualcosa che è destinato a durare. Oppure nel caso nostro ad esordire. C'è una trazione umana ancora più, come dire, più diffusa o da diffondere, e ne parliamo con la professoressa Marisa Calbiati. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Lei è docente della Facoltà del Design del Politecnico di Milano. Sì. L'ascolta anche il professor Edoardo Croci, quindi siete autorizzati a salutarvi, ma vi conoscete. Buongiorno assessore, ex assessore, certo ci conosciamo. Infatti lo si deduce dal fatto che lei non riesce a non chiamarlo assessore, no? Insomma, vi conoscete da un po'. Abbiamo fatto dei bellissimi lavori sulla mobilità sostenibile, ecco, insieme. E ancora la professoressa continua a farli perché, ecco, lei è qui con noi per parlarci della ricerca sul muoversi a piedi a Milano, che a quanto pare è, come dire, una storia da raccontare importante. Sì, abbiamo condiviso questa ricerca con Edoardo Croci, che appunto con cui abbiamo fatto questo pezzo di strada appunto assieme, e la cosa interessante è che abbiamo scelto 10 quartieri a Milano, fra cui Brera, Navigli, Città Studi, Lazzaretto, Isola, eccetera, e abbiamo cercato di verificare attraverso lo strumento dell'audiovisivo com'era lo stile di vita delle persone che abitano in questi quartieri, e poi abbiamo con gli studenti realizzato dei videoscenari per far vedere, per mostrare come diventerebbe la città se fossero applicati questi progetti di pedonalità che sono nel cassetto e che quindi potrebbero benissimo da un giorno, da un momento all'altro, essere applicati. Beh, me lo sono chiesto molte volte anch'io, professoressa, alcune strade bellissime, ovviamente parliamo di Milano in questo momento, ma vale per buona parte della penisola, senza le automobili in realtà parcheggiate sarebbero ancora incredibili spettacoli d'architettura e di arte. Sarebbero fantastici. Io sono andata a Bergamo ieri sera, c'è tutta una parte della città che è un'isola pedonale veramente incredibile, veramente aperta ai cittadini. Perché poi il problema più grosso che noi abbiamo constatato è che non c'è la cultura dell'andare a piedi, soprattutto in città come Milano, che sono città, diciamo, votate all'industria, sono votate al lavoro, e quindi le persone si sono munite di automobili anche grosse nella maggior parte dei casi. E le persone non camminando non si godono più neanche la città, perché non guardano i monumenti, non guardano le vetrine, non guardano le persone. E devo dire che Milano invece è una città straordinariamente affascinante, perché una cosa che è emersa da questi lavori che abbiamo fatto è che tutti gli abitanti di tutti i quartieri che abbiamo intervistato sono orgogliosi di appartenere ai quartieri. E questo è un indicatore interessante, perché tutti hanno detto: ma io qui sto benissimo, certo se pedonalizzano alcune di queste aree sarebbe veramente fantastico, perché questo ci consentirebbe di vivere una diversa qualità della vita. Professor Croci, ma io mi faccio una domanda da come dire, superficiale dal mio punto di vista, ma se il centro di Milano, piuttosto che il centro di Bergamo o il centro di Napoli o il centro di Roma, fossero chiusi al traffico, totalmente chiusi al traffico, tanto gli spazi per usare automobili poi non mancano, e fossero unicamente destinate al traffico pedonale e di alcuni mezzi ecologici non invasivi, eccetera, dico, ma che cosa avremmo da perderci? Nulla. Com'è possibile che questo non venga percepito e non si faccia tout court, da un giorno all'altro, così, in tutte le città? Perché no? Ma vivremmo certamente molto meglio, sarebbe una rivoluzione urbana da cui ne guadagnano tutti. C'è però una resistenza e qua ci vuole il coraggio dell'amministrazione pubblica nel fare delle scelte. Prima facevo l'esempio di Curitiba, dove c'è stato un sindaco coraggioso che ha cambiato le abitudini e poi la gente ha provato e ha visto che si stava meglio. Quindi credo che l'unica soluzione sia che la gente si faccia sentire, che ci sia una forte pressione per chiedere di vivere meglio. Professoressa, secondo lei qual è l'ostacolo a cui fa riferimento? È lo stesso che dice Edoardo, nel senso che c'è una resistenza, ci sono dei conflitti di interessi, per esempio spesso sono i negozianti che non amano le zone pedonali, stranamente, perché se noi pensiamo che il centro di Milano prima era un centro frequentato delle automobili, adesso invece non lo è più e non mi sembra che il commercio abbia patito di tutto questo, anzi, io ovunque vada nel mondo, da Pechino a New York o agli esempi che citava Edoardo in Brasile, Curitiba, per dire, le aree pedonali non sono per niente un deterrente al business e quindi non è chiara questa cosa, è proprio un problema di sensibilizzazione, così come noi abbiamo impiegato molto tempo a essere, come dire, individui sensibili al tema dell'ecologia, per esempio. Se pensiamo a 30 anni fa... Ma anche 10 anni fa, forse anche solo 5 anni fa, parlare di ecologia era più un impegno politico, più una posizione politica che non una posizione economico-sociale. Grazie, professoressa Garbiati. Chiudiamo la trasmissione e ancora una volta, anche da quest'ultima riflessione fatta con la professoressa Garbiati, viene fuori chiaramente che è una questione culturale, educativa, quindi di comunicazione, prima ancora che industriale, di infrastruttura, piuttosto che energetica. Sì, il problema è anche costruire delle città per le persone, non per le auto. Grazie professor Croci, grazie ai nostri radioascoltatori. Arrivederci professore. Arrivederci. Ringraziamo Carmela Lauricella in regia, Anita Panizza in redazione. Per quello che può servire, ascoltate l'appello della professoressa Garbiati e del professor Croci, ma anche quello di Pedro Canoff, fra bici e piedi forse la città si vive meglio e vedrete non cambia nulla. A presto, il programma potete riascoltarlo come al solito su www.radio24.it.